Effetto Mondo. This is more deadly. This is 5 per, you know, this is 5% versus 1% and less than 1%. You know, so this is deadly stuff. Benvenuta Giulia con il nostro Trump quotidiano. Sì, questo è proprio uno degli audio che Bob Woodward, sì, il giornalista, sì, oggi 77enne ma trentenne quando di fatto fece dimettere Nixon con la famosa inchiesta sullo, certo, scandalo del Watergate, ha, tra pochi giorni, il 15, esce il suo nuovo libro che è basato su queste conversazioni registrate con il consenso dell'interessato, cioè di Donald Trump, su varie questioni. La voce che avete sentito è stata registrata il 7 febbraio, quindi quando ancora il Covid sembrava un affare cinese, nemmeno asiatico. È la famosa dichiarazione nella quale Trump dice cosa? Questo è un deadly stuff, questo virus è molto pericoloso, è molto mortale. Il tasso di mortalità, per quello che mi hanno detto, è del 5 volte superiore a quello dell'influenza, che è calcolato intorno all'1%. E quindi Bob Woodward, naturalmente sulla base di questa e di conversazioni successive, ha messo insieme questo libro che si chiama Rage, la rabbia, mentre quello precedente lo scorso anno, sempre su Trump, si intitolava Fear, la paura, e sta scatenando una serie infinita di polemiche. È su tutti i giornali di oggi, anche se non l'apertura è solo del Washington Post, per anche il semplice fatto che Bob Woodward è da sempre, da ormai da 40 anni, un giornalista del Washington Post. E se volete sentiamo però anche la risposta immediata, perché qui di fronte a una, appunto, a una registrazione non si può negare. E quindi Trump ieri in conferenza stampa, alla domanda: ma è vero che lei ha così sapeva tutto del virus, ma era molto grave, poi dopo ha minimizzato, diceva, eccetera, che era, eccetera, meno di un'influenza, sì, e così risponde Trump. Certainly I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence, we want to show strength, we want to show strength as a nation, and that's what I've done. Ecco, e questa è la sua linea di difesa. Sì, è vero, io sapevo, sì, è vero, in pubblico dicevo cose completamente diverse, perché la mia, il mio unico scopo era che questo paese continuasse a mostrarsi forte e coraggioso e che non si entrasse in questo frenzy, cioè in un panico, appunto, quasi in uno stato di panico, di follia, perché poi frenzy è proprio anche quasi follia. Perciò questa è la sua linea di difesa. Per contro, ieri, così completiamo questo capitolo, sì, che è l'ennesimo, insomma, un po' ostacolo verso il 3 novembre, il giorno delle elezioni presidenziali, Cal Bernstein, che è il giornalista che insieme a Bob Woodward aveva fatto quella famosa inchiesta che portò alle dimissioni di Nixon, ieri intervistato ha commentato così questi primi estratti che si conoscono del libro di Bob Woodward. This is a kind of homicidal negligence. Thousands and thousands and thousands of people have lost their lives because the president put his own re-election interest. Ecco, qui dice proprio homicidal negligence, cioè secondo Carl Bernstein questo atteggiamento di Trump di sapere quanto fosse pericoloso il virus e di non averlo detto è una negligenza omicida, ha causato migliaia e migliaia di morti, e ancora una volta Donald Trump ha messo al primo posto la sua rielezione. Devo dire per completezza, ed è una cosa che mi affascina degli Stati Uniti, è di come funziona il sistema di check and balances e di, appunto, di controllarsi a vicenda, che ci sono moltissime polemiche anche tra i giornalisti, e anche tra i giornalisti del Washington Post sostanzialmente dicono a Woodward: ma scusa, conversazione registrata il 7 di febbraio, quindi tu sapevi che il presidente sapeva quanto era pericoloso, te lo sei tenuto perché il 15 di settembre era in uscita il tuo libro. Però, ma davvero, proprio apertamente, sì, ma da colleghi, non dalla Fox, dai suoi colleghi del Washington Post. Però vedi, questa questione, al di là poi di Trump, di come la si pensi anche sul virus eccetera, che tra l'altro assomiglia un po' anche alla posizione, il governo italiano molto, certo, meno negazionista per niente, però è stato in qualche modo detto che non è stato reso pubblico quel piano pandemico con scenari molto drammatici per non spaventare troppo la popolazione. Però questo è un tema secondo me importante, cioè capire davvero quanto il politico, il presidente, debba dire la verità su questi argomenti a rischio di poi spaventare o di sollevare, quanto ci debba essere trasparenza su questi temi. Perché guardate, lo dico agli ascoltatori così per chiudere velocemente, non c'è secondo me una risposta facile su questo, oh, perché che o in un caso o nell'altro si rischia sempre comunque di sbagliare, credo. E quindi insomma è interessante questa, molto, questo passaggio da seguire. Poi sempre sui giornali americani c'è anche molto spazio, il Wall Street Journal ci apre a questo possiamo dire quasi una spy story. Tiffany, la seconda più grande catena di gioielleria al mondo, e LVMH francese, il più grande gruppo del lusso al mondo, accordo per l'acquisizione di ormai di un anno fa, il più grande della storia, e adesso il governo francese tramite il suo ministro per gli affari esteri ha comunicato a LVMH che no, non deve fare questa fusione perché è troppo a rischio per la minaccia che Trump ha fatto e in parte già attuato di dazi sui prodotti di lusso francesi. Non ci sono basi legali per stoppare l'acquisizione con queste motivazioni, e vedremo insomma come finirà, perché è un po' la tempesta perfetta. Anno elettorale, il Covid che fa effetti anche sui gruppi del lusso, e la prima pagina del Wall Street Journal Tiffany fa causa a LVMH, perché siamo già per avvocati, per questa acquisizione da 16,2 miliardi di dollari che potrebbe saltare. Comunque è incredibile come Trump riesca a entrare in tutti i dossier, anche in una cosa dove apparentemente non c'entrerebbe nulla come questa, però c'è un aspetto che... Mi ricordo che proprio qui con te, Effetto Mondo, avevamo parlato della visita che Bernard Arnault aveva fatto con di fianco Trump, due uomini alti uguali, uno forse un po' più sottile, Arnault, alla fabbrica che Whitton aveva aperto in Texas ed era parso a tutti che era un modo per in qualche modo ingraziarsi Trump, creare una fabbrica, creare posti di lavoro per evitare che magari lui si mettesse di mezzo, e poi comunque pare sia successo. Allora, altre tematiche in primo piano a livello internazionale in queste ore sono sia quello che è successo a Lesbo, in Grecia, con questi incendi nel campo profughi, poi c'è anche la Bielorussia con gli sviluppi delle ultime ore. Dove vuoi partire, Giulia? Sì, guarda, prima di tutto vorrei che tu testimoniassi che io ho una mascherina molto matematica oggi, perché insomma devo questa precisazione. Un ieri ascoltatore, sì, troppi zeri per me. Io adoro la matematica, l'ho sempre amata, sì. Però troppi zeri nella proporzione che ho tentato di fare ieri, quindi tra in Italia, realtà ho detto esatto che 90.000 casi su 1,5 miliardi, che poi sono 1,3 miliardi di persone che vivono in India, sarebbero come 54 da noi. No, mancano due zeri, sarebbero come 5.400, ma l'ascoltatore è andato oltre e mi ha detto però in realtà siccome è 1,3 miliardi, allora quei 90.000 sarebbe circa 3.900, quindi comunque più di quello che abbiamo noi in questo momento. Quindi ecco una precisazione dovuta per chi diciamo si ricordava questo particolare, altrimenti insomma lo abbiamo ripetuto. Sì, poi devo dirti, mi ha fatto veramente effetto, guarda, ce li ho qui davanti a me, oggi tutti i giornali tedeschi, io non so se si sono messi d'accordo, ma hanno la stessa foto, che fa male anche solo darle un'occhiata veloce, di quella giovane donna che con sottobraccio delle valigie, chiamarle valigie è quasi un insomma esagerato, sono dei grandi sacchi di plastica, scappa dall'incendio sull'isola di Lesbo. È molto interessante perché tutto il taglio di tutti i quotidiani, c'è anche la notizia che va a processo l'ex numero uno di Volkswagen e ovviamente deve stare in prima pagina, però tutti gli articoli su questo tema danno conto delle prime reazioni soprattutto della CDU, di rappresentanti della CDU, il partito di Angela Merkel, il principale partito della coalizione di governo, in tutti i vari Länder, perché tutti dicono accogliamoli, si stanno facendo delle cifre, noi siamo pronti a accoglierne 1000, Schleswig, Holstein, non siamo pronti ad accoglierne meno, e poi un appello non all'Europa e non direttamente all'Italia, perché chiaramente si rendono conto che noi siamo in questa situazione di accoglienza forzata da tantissimo tempo, ma soprattutto alla Francia. Quindi ancora che l'Europa reagisca, perché questa è una vergogna per l'Europa. Assolutamente. Bielorussia, Giulia, ci sono insomma c'è un'escalation in qualche modo quasi. Sì, perché ci sono insomma tutti questi arresti, tra l'altro ormai ne resta libero solo uno degli esponenti dell'opposizione a Lukashenko, ne danno conto soprattutto i giornali tedeschi, mentre il quotidiano francese Libération ha in prima pagina questa fotomontaggio di Erdogan e Macron, perché oggi in Corsica si riunisce il MED7 e si parlerà, visto che abbiamo citato la Grecia, anche di questo scontro, per ora per fortuna che non si è tradotto poi, cioè di uno scontro potenziale in mare tra la Turchia e la Grecia. E di nuovo insomma l'Europa deve mostrare la sua solidarietà alla Grecia, sia nel contrasto alle mire espansionistiche di Erdogan, sia nella gestione dei migranti. Grazie Giulia, è tutto per oggi, anche per quanto riguarda la puntata di Effetto Giorno con Laura Faggini in redazione e Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo naturalmente domani. Buona giornata da Alessio Maurizi, ci risentiamo per l'aggiornamento delle 14 tra pochi minuti.